Ad alta voce, Peppe Servillo legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. La sera in cui Fernanda sorprese Meme e Maurizio Babilonia nel cinema, Aureliano II si sentì oppresso dal peso della coscienza e andò a trovare Meme nella stanza dove l'aveva rinchiusa Fernanda, sperando che la ragazza si sarebbe sfogata con lui delle confidenze di cui gli era debitrice. Ma Meme negò ogni cosa. Era così sicura di se stessa, così aggrappata alla sua solitudine, che Aureliano II ebbe l'impressione che ormai non esisteva più alcun vincolo tra loro, che il cameratismo e la complicità non erano più che una illusione del passato. Pensò di andare a parlare con Maurizio Babilonia, credendo che la sua autorità di antico padrone lo avrebbe fatto desistere dai suoi propositi. Ma Petra Cotes lo convinse che quelle erano faccende di donne, di modo che rimase sospeso in un limbo di indecisione e sostenuto appena dalla speranza che la reclusione avrebbe posto fine alle tribolazioni di sua figlia. Meme non diede alcuna mostra di afflizione. Al contrario, dalla stanza attigua Ursula percepì il ritmo tranquillo del suo sonno, la serenità delle sue faccende, l'ordine dei suoi pasti e la buona salute della sua digestione. L'unica cosa che stupì Ursula dopo quasi 2 mesi di punizione fu che Meme non facesse il bagno di mattina, come lo facevano tutti, ma alle 7 di sera. Certe volte pensò di metterla in guardia contro gli scorpioni, ma Meme era così fredda, convinta com'era che lei gli avesse fatto la spia, che preferì non turbarla con spropositi da trisnonna. Verso il crepuscolo le farfalle gialle invadevano la casa. Tutte le sere, tornando dal bagno, Meme trovava Fernanda disperata, intenta a uccidere farfalle gialle con lo spruzzatore di insetticida. «Questa è una disgrazia», diceva. «Mi hanno sempre detto che le farfalle notturne portano sfortuna». Una sera, mentre Meme si trovava nel bagno, Fernanda entrò nella sua stanza per caso e c'erano tante farfalle che si poteva appena respirare. Afferrò uno straccio qualsiasi per scacciarle e il cuore le si gelò di terrore quando mise in relazione i bagni notturni di sua figlia coi cataplasmi di senape che erano caduti per terra. Non attese il momento opportuno, come aveva fatto la prima volta. Il giorno dopo invitò a pranzo il nuovo alcalde, che come lei veniva dagli altipiani, e lo pregò di far mettere una guardia notturna in fondo al patio, perché aveva l'impressione che le rubassero le galline. Quella sera la guardia abbatté Maurizio Babilonia, mentre stava togliendo le tegole per entrare nel bagno, dove Meme lo aspettava, nuda e tremante di amore, tra gli scorpioni e le farfalle, come aveva fatto per quasi tutte le notti degli ultimi mesi. Un proiettile, incrostato nella colonna vertebrale, lo costrinse in un letto per il resto della vita. Morì vecchio, nella solitudine, senza un lamento, senza una protesta, senza un solo tentativo di risentimento, tormentato dai ricordi e dalle farfalle gialle, che non gli concedettero un istante di pace, e ripudiato da tutti, come ladro di galline. Gli avvenimenti che avrebbero dato il colpo mortale a Macondo cominciarono a intravedersi quando portarono nella casa il figlio di Meme e Wendia. La situazione pubblica era in quei tempi così incerta che nessuno aveva l'animo disposto a occuparsi di scandali privati, sicché Fernanda poté approfittare di un ambiente propizio per mantenere il bambino nascosto, come se non fosse mai esistito. Dovette accettarlo, perché le circostanze in cui glielo portarono non resero possibile un rifiuto. Dovette sopportarlo contro la sua volontà per il resto della sua vita, perché nell'ora della verità le era mancato il coraggio di compiere l'intima determinazione di affogarlo nella cisterna del bagno. Lo chiuse nell'antico laboratorio del colonnello Aureliano Windia. Riuscì a convincere Santa Sofia della Pietad di averlo trovato che galleggiava in un cestino. Ursula sarebbe morta senza conoscere la sua origine. La piccola Amaranta Ursula, che una volta era entrata in laboratorio mentre Fernanda stava alimentando il bambino, credette anche lei alla versione del cestino galleggiante. Aureliano II, definitivamente staccato da sua moglie per il modo irrazionale col quale questa aveva trattato la tragedia di Meme, non seppe dell'esistenza del nipote fino a 3 anni dopo che glielo avevano portato in casa, quando il bambino scappò dalla sua prigione per una disattenzione di Fernanda e si affacciò sul portico per una frazione di secondo, nudo e coi capelli arruffati e con un impressionante sesso da barbiglio di tacchino, come se non fosse una creatura umana, bensì la definizione enciclopedica di un antropofago. Fernanda non aveva fatto i calcoli su quel tiro birbone del suo incorreggibile destino. Il bambino fu come il ritorno di una vergogna che lei credeva di aver esiliato per sempre dalla casa. Si erano appena portati via Maurizio Babilonia con la spina dorsale spezzata e già Fernanda aveva stabilito fino al particolare più insignificante il piano destinato a eliminare ogni vestigio dell'obbrobrio. Senza consultare suo marito, fece il giorno dopo i suoi bagagli. Mise in una valigetta i 3 ricambi di cui sua figlia poteva aver bisogno e andò a cercarla nella stanza, mezz'ora prima dell'arrivo del treno. «Andiamo, Renata!» le disse. Non le diede alcuna spiegazione. Meme, da parte sua, non se l'aspettava né la voleva. Non soltanto ignorava dove erano dirette, ma a lei non sarebbe importato nemmeno se l'avessero condotta al macello. Non aveva più parlato, né lo avrebbe più fatto per il resto della vita, da quando aveva sentito lo sparo in fondo al patio e il simultaneo urlo di dolore di Maurizio Babilonia. Quando sua madre le ordinò di uscire dalla stanza, non si lavò, né si pettinò, e salì sul treno come una sonnambula, senza nemmeno notare le farfalle gialle che continuavano ad accompagnarla. Fernanda non seppe mai, né si prese il disturbo di indagare se il suo silenzio ermetico era una decisione della sua volontà o se fosse rimasta muta per il colpo della tragedia. Meme si rese appena conto del viaggio attraverso la regione incantata. Non vide le ombrose e interminabili piantagioni di banano ai 2 lati del percorso. Non vide le case bianche dei Gringos, né i loro giardini inariditi dalla polvere e dal caldo, né le donne in pantaloncini e camicie a righe azzurre che giocavano a carte sotto i portici. Non vide i carri di buoi carichi di caschi sui sentieri polverosi. Non vide le ragazze che saltavano come pesci nei fiumi trasparenti per lasciare nei passeggeri del treno l'amarezza dei loro seni splendidi. Né le baracche multicolori e miserevoli dei lavoratori dove svolazzavano le farfalle gialle di Maurizio Babilonia e sulle cui soglie c'erano bambini verdi e squallidi seduti sui loro pitalini e donne gravide che lanciavano improperi al passaggio del treno. Quella visione fugace che per lei era una festa quando tornava dal collegio passò nel cuore di Meme senza farlo fremere. Non guardò dal finestrino nemmeno quando terminò l'umidità ardente delle piantagioni e il treno passò per la pianura di papaveri dove c'era ancora il corbame carbonizzato del galeone spagnolo e uscì poi verso la stessa aria diafana e lo stesso mare spumoso e sudicio dove quasi un secolo prima si erano arenate le illusioni di José Arcadio Buendía. alle 5 del pomeriggio, quando arrivarono nella stazione finale della palude, scese dal treno, perché Fernanda era scesa. Salirono su una carrozzella che sembrava un pipistrello enorme, tirata da un cavallo asmatico, e attraversarono la città desolata, nelle cui strade interminabili e conciate dal salnitro risonava un esercizio di piano uguale a quello che sentiva Fernanda nelle siste della sua adolescenza. Si imbarcarono su un battello fluviale, la cui ruota di legno faceva un rumore da conflagrazione e le cui lastre di ferro, rose dalla ruggine, riverberavano come la bocca di un forno. Meme si chiuse nella cabina. Due volte al giorno Fernanda lasciava un piatto di cibo vicino al suo letto e due volte al giorno se lo riportava via intatto, non perché Meme avesse deciso di morire di fame, ma perché le ripugnava il solo odore dei cibi e il suo stomaco rigettava anche l'acqua. Nemmeno lei sapeva allora che la sua fertilità si era presa a gioco dei vapori di senape, così come Fernanda non lo seppe fin quasi un anno dopo, quando le portarono il bambino. Nella cabina soffocante, scombussolata dalle vibrazioni delle pareti di ferro e dal tanfo insopportabile del limo rimosso dalla ruota del battello, Meme perse il conto dei giorni. Era passato molto tempo da quando aveva visto l'ultima farfalla triturata dalle pale del ventilatore e ammise come una verità irrimediabile che Maurizio Babilonia era morto. Tuttavia, non si lasciò vincere dalla rassegnazione. Continuava a pensare a lui durante la penosa traversata in groppa alla mula verso l'altipiano allucinante dove si era perso Aureliano II quando cercava la donna più bella che fosse mai esistita sulla terra e quando risalirono la cordigliera lungo i sentieri degli Indios ed entrarono nella città lugubre nei cui labirinti di pietra risuonavano i bronzi funebri di 32 chiese. Quella notte dormirono nell'abbandonata magione coloniale sulle tavole che Fernanda mise sul pavimento di una sala invasa dalle erbacce e avvolte in brandelli di tende che strapparono dalle finestre e che si sbriciolavano a ogni mossa del corpo. Meme seppe dove si trovavano, perché nello stupore dell'insonnia vide passare il cavaliere vestito di nero che in una lontana vigilia di Natale avevano portato in casa in un cofano di piombo. Il giorno seguente, dopo la messa, Fernanda la condusse in un edificio oscuro che Meme riconobbe subito, grazie alle rivocazioni che sua madre soleva fare del convento dove l'avevano educata per essere regina. E allora capì di essere giunta al termine del viaggio. Mentre Fernanda parlava con qualcuno nell'ufficio attiguo, lei rimase in un salone scaccheggiato con grandi ritratti di arcivescovi coloniali, tremando di freddo, perché portava ancora un vestito di cotonina con fiorellini neri e i duri borzacchini gonfiati dal gelo degli altipiani. Stava in piedi, in mezzo al salone, e pensava a Maurizio Babilonia, sotto il fiotto giallo delle vetrate, quando uscì dall'ufficio una novizia molto bella, che portava la sua valigetta con i 3 ricambi. Passando vicino a Meme, le tese la mano, senza fermarsi. «Andiamo, Renata», le disse. Meme le prese la mano e si lasciò condurre via. L'ultima volta che Fernanda la vide, nell'atto di regolare il proprio passo con quello della novizia, finiva di chiudersi alle sue spalle il cancello di ferro della clausura. Pensava ancora a Maurizio Babilonia, al suo odore di olio e al suo alone di farfalle, e avrebbe continuato a pensare a lui in tutti i giorni della sua vita, fino al remoto mattino d'autunno in cui sarebbe morta di vecchiaia, sotto falso nome, e senza aver mai detto una parola, in un tenebroso ospedale di Cracovia. Fernanda tornò a Macondo, su un treno protetto da poliziotti armati. Durante il viaggio notò la tensione dei passeggeri, i preparativi militari nei villaggi della linea, e l'aria era rifatta dalla certezza che qualcosa di grave sarebbe successo, ma non ebbe alcuna informazione, finché non arrivò a Macondo e le raccontarono che José Arcadio II stava incitando allo sciopero i lavoratori della compagnia bananiera. Ci mancava solo questo, si disse Fernanda, un anarchico in famiglia. Lo sciopero scoppiò 2 settimane dopo e non ebbe le conseguenze drammatiche che si temevano. Gli operai chiedevano di non essere costretti a tagliare e imbarcare le banane nei giorni di domenica e la richiesta sembrò così giusta che lo stesso padre Antonio Isabel intercedette in loro favore perché la trovò concorde alla legge di Dio. Il successo dell'azione, così come di altre che si promossero nei mesi seguenti, tolse dall'anonimato lo scolorito José Arcadio II, di cui si usava dire che era servito soltanto a riempire il villaggio di puttane francesi. Con la stessa risoluzione impulsiva con la quale aveva ceduto al maggior offerente i suoi galli da combattimento per iniziare un'impresa di navigazione scombinata, ora rinunciò all'incarico di caposquadra della compagnia bananiera e assunse le difese dei lavoratori. Ben presto fu segnalato come agente di una cospirazione internazionale contro l'ordine pubblico. Una notte, nel corso di una settimana offuscata da oscure voci, sfuggì miracolosamente a 4 colpi di revolver, sparatigli da uno sconosciuto, mentre stava uscendo da una riunione segreta. Fu così tesa l'atmosfera dei mesi seguenti che perfino Ursula la percepì nel suo angolo di tenebre ed ebbe l'impressione di star rivivendo i giorni rischiosi in cui suo figlio Aureliano teneva in tasca i globuli omeopatici della sovversione. Cercò di parlare con José Arcadio II per avvisarlo di quel precedente, ma Aureliano II la informò che dalla notte dell'attentato si ignorava il suo rifugio. «Proprio come Aureliano», esclamò Ursula, «è come se il mondo continuasse a girare in tondo». Fernanda rimase immune dalla incertezza di quei giorni. Mancava di contatti col mondo esterno, fin dall'epoca della violenta lite avuta col marito per aver deciso della sorte di Meme senza il suo consenso. Aureliano II era disposto a riscattare sua figlia, con l'aiuto della polizia se fosse stato necessario. Ma Fernanda gli mostrò delle carte nelle quali si dimostrava che era entrata in clausura di sua volontà. Effettivamente, Meme le aveva firmate quando si trovava già dall'altra parte del cancello di ferro e lo aveva fatto con la stessa indifferenza con la quale si era lasciata condurre. In fondo, Aureliano II non credette alla legittimità delle prove, come non credette mai che Maurizio Babilonia si fosse calato nel patio per rubare galline. Ma i 2 espedienti gli servirono per tranquillizzare la coscienza e poté allora tornare senza rimorsi all'ombra di Petra Cotes, dove riprese le baldorie chiassose e le sfrenate sgavazzate. Estranea all'inquietudine del villaggio, sorda ai tremendi pronostici di Ursula, Fernanda diede l'ultimo giro alle viti del suo piano consumato. Scrisse una lunga lettera a suo figlio José Arcadio, che stava già per ricevere gli ordini minori, e gli comunicò che sua sorella Renata era spirata nella pace del Signore a causa del vomito nero. Poi affidò Amaranta Ursula alle cure di Santa Sofia della Pietad e si dedicò all'organizzazione della sua corrispondenza coi medici invisibili, interrotta dall'incidente di Meme. Per prima cosa fissò la data definitiva per la rimandata operazione telepatica, ma i medici invisibili le risposero che non era prudente eseguirla fin tanto che fosse durato lo stato di agitazione sociale a Macondo. Fernanda era così impaziente e così mal informata che spiegò loro con un'altra lettera che non c'era affatto uno stato di agitazione e che tutto si riduceva ai frutti delle pazzie di un suo cognato a cui in quei giorni era venuto il ghiribizzo sindacale, come gli era successo anche altre volte coi galli e con la navigazione. Non si erano ancora messi d'accordo quel soffocante mercoledì in cui bussò alla porta della casa una vecchia suora che portava un cestino appeso al braccio. Quando le aprì, Santa Sofia della Pietad pensò che fosse un regalo e cercò di toglierle il cestino ricoperto con una bellissima copertina di pizzo. Ma la suora glielo impedì, perché aveva l'ordine di consegnarlo personalmente e sotto il più stretto riserbo alla signora Fernanda del Carpio in Guendia. Era il figlio di Meme. L'antico direttore spirituale di Fernanda le spiegava in una lettera che era nato 2 mesi prima e che si erano permessi di battezzarlo col nome di Aureliano, come suo nonno, perché la madre non aveva schiuso le labbra per esprimere la sua volontà. Fernanda si ribellò dentro di sé a quella beffa del destino, ma davanti alla suora ebbe la forza di dissimulare. «Diremo di averlo trovato che galleggiava in un cestino», sorrise. «Non ci crederà nessuno», disse la suora. «Se hanno creduto alle sacre scritture», ribatté Fernanda, «non vedo perché non dovrebbero credere a me». La suora pranzò in casa, mentre aspettava il treno di ritorno, e in conformità alla discrezione che le avevano imposto, non parlò più del bambino. Ma Fernanda la considerò una testimone indesiderabile della sua vergogna e deplorò che non fosse più in uso la costumanza medievale di impiccare il messaggero di cattive nuove. Fu allora che decise di affogare il neonato nella cisterna, non appena la suora se ne fosse andata, ma non ebbe tanto coraggio e preferì aspettare con pazienza che la infinita bontà di Dio la liberasse dell'intralcio.